della possibilità delle città, ma anche dello Stato, di altre istituzioni, di indebitarsi per rispondere all'esigenza di soddisfare diritti fondamentali. Però, oltre a questo discorso che abbiamo già fatto, in questa puntata ci interessava approfondire il discorso di quello che è successo a Napoli, perché noi sappiamo che oltre a questa già difficile situazione dei comuni, che sostanzialmente poi sono costretti a vendere il patrimonio oppure a ricorrere al mercato per i prestiti, ci sono anche dei debiti cosiddetti illegittimi, cioè dei debiti che non sono stati contratti nell'interesse generale degli abitanti e delle abitanti. In particolare, proprio diciamo, questa emergenza ha dato mostra di come ci sia bisogno di soldi per reagire ai più elementari diritti fondamentali, e ce ne sia bisogno ancora adesso. Infatti, tanto si sta spendendo e tanto si dovrà spendere. E il Comune di Napoli ha approfittato per una delibera di importanza storica, che poi discuteremo anche con i nostri ospiti, che riguarda la cancellazione e il ripudio del debito illegittimo, quindi appunto un debito che non è contratto nell'interesse dei cittadini. E in particolare questa delibera si è soffermata su tre tipi di debito illegittimo, che poi andremo a vedere meglio, che è quello dei derivati, perché c'è stata una stagione passata di investimento in contratti derivati, quindi strumenti speculativi ad alto rischio, un debito derivante dal commissariamento con cui siamo stati costretti a reagire, soprattutto diciamo ad opera del governo nazionale, a diverse emergenze di cui poi parleremo meglio, e gli interessi sui mutui. In particolare la delibera si è concentrata sui mutui di Cassa Depositi e Prestiti, che hanno un'importanza particolare, in parte ne abbiamo parlato già con Marco Bersani la volta scorsa, in parte ne parleremo oggi soprattutto con Ferdinando. Allora, i nostri ospiti sono Ferdinando Capozzo, commercialista, e Vincenzo Benessere, che è chimico, ma ha acquisito negli anni una grandissima esperienza con i temi del debito pubblico, perché, come ci dicevamo anche l'altra volta, il debito pubblico è una questione pubblica che incide sulla possibilità per gli organi eletti e quindi per i cittadini di prendere decisioni sulla città. Quindi è perfettamente naturale che chiunque si possa interessare delle scelte politiche che sono dietro la spesa delle istituzioni pubbliche. E in particolare la Consulta è un organo che serve proprio a questo, cioè a discutere in modo partecipato, in modo pubblico, il debito della città, e quindi dare delle consulenze, fare anche degli studi a favore del Comune, della Giunta, e dare delle consulenze alla Giunta in materie che ai cittadini stanno a cuore, ma che per diverse ragioni non sono state approfondite direttamente dagli organi politici. Quindi è un organo che nasce innanzitutto dal basso per essere stato poi proposto alle istituzioni cittadine. Allora, io non parlo oltre, ma volevo chiedere innanzitutto a Ferdinando cosa ti ha portato a prendere parte a un percorso di auditoria pubblica. E perché pensi che sia importante discutere pubblicamente delle questioni del debito? Innanzitutto, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa di intervenire in questa diretta. Bella domanda questa, ma anche molto semplice, se vogliamo. Io, come ha detto Maria Francesca, sono un commercialista, revisore legale, e negli ultimi anni ho più volte affrontato la questione relativa ai bilanci dei comuni, in particolare di piccoli comuni, e nel 2018, per un fatto di curiosità professionale che è il sale dell'attività professionale, mi sono addentrato nei meandri del bilancio del Comune di Napoli nel previsionale 2018 per il triennio 18-2020. Quindi, quando sul sito del comune è apparsa la possibilità di presentare la domanda, mi è sembrata quasi una cosa, diciamo, naturale, poter presentare la domanda per poter fare parte di questo organismo, che, ricordiamo, innovativo, unico in Italia. E quindi poter partecipare a un qualcosa del genere sicuramente da stimoli e quindi in minima parte, per quanto possibile, la speranza di poter dare un contributo. La consulta ha un ruolo, secondo me, importante adesso e lo potrà assumere ancora di più quando i cittadini si renderanno conto che la partecipazione alle decisioni politiche non può essere soltanto a valle, ma deve essere in corso d'opera. I cittadini, perché io da cittadino ho partecipato, ho presentato la domanda e da cittadino io sono presente nella consulta, abbiamo la necessità di capire le cose come realmente stanno e quindi in un periodo difficile dove c'è un distacco enorme tra le istituzioni e i cittadini, la consulta io la vivo anche come uno strumento di partecipazione, di democrazia partecipativa, che non guasta in questo periodo, che non guasta perché i populismi avanzano, le difficoltà dei sindaci, di tutti i sindaci d'Italia, sono enormi e qualsiasi cosa che non va viene attribuita al sindaco di turno, che è l'istituzione più vicina ai cittadini, è l'istituzione di prossimità. Quindi conoscere invece quali sono realmente i capisaldi di un bilancio, di cosa poter magari suggerire per migliorare le condizioni del nostro comune, e per me è stata la scelta spontanea, diciamo di cuore, di passione. Sono figlio di questa città e quindi per quanto possibile vorrei contribuire a migliorare le condizioni. Questa è sostanzialmente la mia idea di consulta. Poi nascono tante domande, tante cose, perché per esempio se noi guardiamo il quotidiano, la gente non si spiega perché vengono chiusi dei parchi, la notizia di ieri, i parchi in periferia, in particolare a San Pietro a Paterno, zona a me molto cara perché ci sono cresciuto, 4 parchi chiusi perché non c'è manutenzione. Vengono chiuse le scuole, non in caso della pandemia, ma prima della pandemia, perché non c'è manutenzione e si ha paura di un temporale, grande o piccolo che sia. Le strade sappiamo quali sono. Tutto questo ha origini nella mancanza di risorse per poter affrontare quelle che tecnicamente viene chiamate spesa corrente, che per intenderci è il pane, la pasta, le sigarette che quotidianamente in una famiglia vengono acquistate, la spesa corrente, cosa ben diversa dagli investimenti. Fare una ristrutturazione di una casa è quelle proprio, i comuni purtroppo non sono per niente più abituati, quindi non riusciamo nemmeno a reggere la spesa corrente. In particolare, da qui nasce poi lo studio fatto dalla commissione, io ho puntato sempre l'attenzione sul fatto che il comune di Napoli ha nel suo bilancio l'8% della spesa corrente, quindi delle spese in manutenzione e quant'altro, quindi quanto già dichiarato prima, già detto prima, e purtroppo viene risucchiato dagli interessi passivi. Stiamo parlando di una cifra enorme, sono 90 milioni di euro. Su questa cifra c'è sicuramente molto da fare, e lo studio fatto dalla commissione di cui io sono membro insieme a Giorgina Fiore, Vittorio Lovera, Corrado Conti, Vincenzo Benessere e Adriano Pozzolino mette in evidenza la necessità di porre un freno a questo delirio di avere interessi passivi così alti che impediscono a qualsiasi comune, quindi non parlo solo dei comuni di Napoli, di poter svolgere la propria attività, che è un'attività a servizio dei cittadini. Immaginate cosa può succedere, cosa sta succedendo in questo momento dove le risorse scarseggiano ancora di più. Noi, è vero, dobbiamo dare attenzione al mondo produttivo, ma io da questo punto di vista vedo al momento pochissima attenzione agli enti locali in seguito alla crisi del Covid. E noi su questo, secondo me, dobbiamo essere bravi a portare avanti l'idea, di cui magari ne parleremo dopo, perché questo era semplicemente un motivo per dirvi per quale motivo io sto qui, cioè faccio parte della Consulta, faccio parte con tutta la passione civica che mi caratterizza, che mi ha sempre caratterizzato, e non, diciamo, la parte professionale è uno strumento che mi permette di essere un cittadino attivo in questo momento. Tutto qui. Grazie, mi sembrano comunque molto importanti queste storie, perché poi ci aiutano a entrare nel vivo di, perché poi riguarda tutti e tutte la questione. Volevo chiedere a Vincenzo, perché so che lui la Consulta l'ha vista nascere, un po' come è nata. Ovviamente è nata, come dicevo prima, soprattutto da un'esperienza che, di movimento sociale, quindi di assemblee pubbliche, ma che in primo luogo e in parte tuttora resta un'esperienza conflittuale nei confronti della città. Quindi poi come si è trasformata invece in un organo pubblico, diciamo, di nuovo tipo, perché è un organo popolare? Beh, innanzitutto, come già ha fatto Ferdinando, buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, spero da molte parti d'Italia, e grazie veramente sentitissimo a tutti i compagni e le compagne che hanno dato vita a questa esperienza della Radio Quarantella, sulla quale stiamo trasmettendo online. Beh, la Consulta è, diciamo, come dire, il risultato, il frutto di un percorso che viene da molto lontano. Diciamo, sintetizzando, potremmo dire che viene inizia da quelle esperienze che sono state fatte con Attacca Italia sulla questione, appunto, del debito ingiusto, il debito illegittimo, e con il KDTM, quindi negli anni 80, dall'annullamento del debito del terzo mondo, e poi si è fatto sempre più attenzione sul debito illegittimo degli stati e poi degli enti locali. Quindi affonda le radici nell'attivismo e nella conflittualità, nell'antagonismo sociale degli anni 80-90, e poi dal 2011 in poi, dal referendum sui servizi pubblici, possiamo dire. Successivamente ha preso una grande diciamo, risonanza quando c'è stata la grande crisi del debito statale greco, e lì da Napoli e da tutte le parti d'Italia abbiamo dato un grande impulso a quella battaglia che ci è sembrata dirimente, che purtroppo è andata a finire non bene per la Grecia, ma c'è stata la Commissione per la verità sul debito pubblico greco, con Toussaint ad affare da presidente, che ci ha dato grande linfa, ci ha dato grande vigore, grandi bibliografie, pure possiamo dire molti spunti bibliografici e spunti concreti. Successivamente poi nasce l'esperienza napoletana, e questa esperienza napoletana nasce sicuramente dal comitato Attac Napoletano, ma dalle esperienze dell'asilo Filangieri, dalle esperienze sui beni comuni, da tutto l'attivismo sociale che c'è a Napoli, e che ha portato poi sostanzialmente a massa critica nata il 5 settembre del 2015, dalle esperienze di confluenza e di confederazione delle esperienze dell'attivismo sociale napoletano. C'erano un po' tutti in quel periodo a fare massa critica attorno a dei temi fondamentali, e da quell'esperienza molto molto importante per la città, non dimentichiamo che il motto di quell'esperienza politica era: un'amministrazione dura 5 anni, mentre si è napoletani tutta la vita, ma si poteva sostituire a napoletani tranquillamente la derivazione di altre città, no? Si immaginava un po' il modello e l'opzione politica neomunicipalista, che tuttora noi crediamo sia molto valida. E da quel momento due grossi temi vennero fuori, che era chiaramente quello dei beni comuni e quello del debito. Quindi è continuata a livello locale la questione del debito, sappiamo bene come è andata a finire la questione dei beni comuni, è nato l'osservatorio sui beni comuni della città di Napoli, grandissimi risultati ha ottenuto sia dal punto di vista della teoria politica ma anche della pratica politica. Poi cosa accadde? Accadde un po' quello che purtroppo dicevamo da tempo già col tavolo audit, sempre di massa critica, che il debito del comune di Napoli era un debito fuori dal comune. Questo debito fuori dal comune era fatto di derivati, era fatto di mancate riscossioni, era fatto di tante inefficienze, ma era fatto soprattutto da un meccanismo di base, che è quello del memorandum, lo possiamo chiamare, del predissesto, che viene applicato agli enti locali e che stava pesando tantissimo su una condizione che è quella che è la condizione del comune di Napoli, già gravosa. Quindi noi avevamo fatto più volte notare attraverso manifestazioni pubbliche di piazza, come facevamo a quei tempi con Massa Critica, sempre pubblicamente, che il debito del Comune di Napoli fosse insostenibile non solo e non soltanto per delle questioni legate a delle insipienze dell'amministrazione, ma soprattutto perché sottostava un meccanismo particolare di loop che non poteva far altro che erodere continuamente le risorse della città e portare alla svendita totale. Da quella stagione possiamo dire siamo arrivati al 2017. Nel 2017 venne poi fuori appunto la crisi più grossa che è nota a tutti del CR8 napoletano, che è questo debito di un commissariamento del 1980 che portò il comune sostanzialmente al fallimento tecnico. Cosa è successo poi da quel momento? Abbiamo cominciato a resistere, resistere nelle piazze, resistere anche dal punto di vista teorico, rispondendo colpo su colpo a quello che diceva la Corte dei Conti. L'amministrazione si è impegnata fino in fondo a cercare di non far fallire la città, e questo devo dire ci ha convinto molto ad andare avanti, perché per noi fare in modo che Napoli non si svenda, che Napoli non si vende, per noi è fondamentale. E quindi appoggiammo a metà del 2018 tutta quella campagna su quello che l'amministrazione chiamava debito ingiusto. Da quei momenti, da quelle piazze, è nata la finalmente la confluenza con l'amministrazione, un po' altalenante ma comunque proficua, che ha portato poi alla nascita della Consulta. Quindi il tavolo audit Massa Critica e tutte quelle esperienze un po' si sciolgono, comunque vanno a far parte di questa Consulta cittadina, nuova istituzione di consulenza all'amministrazione, ma sostanzialmente organo autonomo che può autoconvocarsi e può convocare dirigenti e cittadinanza per informare sulle questioni del debito e sulle questioni che riguardano il bilancio e le risorse, perché la Consulta si occupa anche delle risorse. Quindi sostanzialmente quello che noi andiamo a fare è un lavoro territoriale, capire un po' quali sono le risorse della città, dove mancano, se ci sono riscossioni fatte male, se ci sono come dire, ammancamenti di cassa che potrebbero derivare da alcuni soggetti e non da altri, ma soprattutto stiamo andando ad approfondire quelle che sono le questioni relative al meccanismo che sottintende il debito napoletano, che non dimentichiamo che Napoli ha già dichiarato default nel 92 e da quel momento è iniziata una nuova corsa che poi ha portato, soprattutto nella stagione diciamo, della prima rosa Russo Iervolino, a quelli che sono gli anni della finanza creativa, che poi hanno generato i derivati, che hanno generato i mutui, che hanno incancrenito la questione, non affrontandola di fatto, dei commissariamenti. E non ultima la questione della Cassa Depositi e Prestiti. Noi ci stiamo soffermando molto su questo punto, ma poi ci dirà probabilmente qualcosa in più Ferdinando, perché non possiamo nascondere la cittadinanza, come già diceva Ferdinando, che il meccanismo di predissesto è un meccanismo che alimenta il debito, e questo debito è alimentato sostanzialmente dalla Cassa Depositi e Prestiti, che soltanto nominalmente è un aiuto di Stato, ma che di fatto applica dei tassi che sono folli. Quindi è questo quello che stiamo facendo, e questa è un po' la storia che ha portato alla Consulta, che attualmente è presieduta dal professor Paolo Maddalena, e che è fatta da alcune commissioni: la Commissione Nuova Finanza Pubblica e Derivati, la Commissione sui commissariamenti e il debito per gli enti locali e la Commissione sulle dismissioni. E questo è quanto, diciamo. Grazie. No, sì, è importante perché poi è importante anche sapere che l'esperienza napoletana non è l'unica, ma ci sono tanti comitati che in tutta Italia stanno cercando di realizzare esperienze simili. Allora, io a questo punto entrerei un po' più nello specifico e proprio dal tema della Cassa Depositi e Prestiti che citavi anche tu, Vincenzo. Allora, Ferdinando, voi con appunto questa commissione che nominavi poco fa avete fatto uno studio su, anche diciamo approfondito, documentale sul debito derivante dai mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Allora, volevo sapere un po' cosa è emerso da questo studio e come si è arrivati poi alla delibera del 24 aprile? Allora, io vorrei fare un attimo un po' di chiarezza, perché spesso sentiamo parlare di Cassa Depositi e Prestiti, ma forse non tutti sanno di che cosa si tratta, da cosa trae origini e che storia anche lunga ha. Considerate che è stata fondata nel 1850 dal regno di Sardegna e si chiamava Cassa Piemontese, e su un modello, è stata costruita su un modello francese, perché nel 1816 in Francia già nacque una cassa di credito, una cassa di depositi e prestiti, e quindi su un modello francese. Perché fare riferimento al fatto storico? Perché aveva i signori dell'epoca, gli amministratori, avevano avuto un'intuizione bellissima, che secondo me si è profondamente mutata, stravolta, soprattutto negli ultimi 20 anni. Il concetto era questo. Perché nasce Cassa Depositi e Prestiti? I cittadini depositano i propri risparmi presso la Cassa Depositi e Prestiti, riceveranno ovviamente legittimamente un interesse remunerativo per il prestito effettuato alla Cassa. La Cassa utilizzava questi soldi per opere pubbliche, quindi era un meccanismo virtuoso, considerate poi per l'epoca ancora più virtuoso, perché siamo nella fase di crescita, di urbanizzazione, le persone lasciavano l'agricoltura per andare a vivere in città, quindi c'era bisogno di strade, c'era bisogno di scuole, c'era bisogno di strutture pubbliche di ogni genere, e la Cassa Depositi e Prestiti ha fornito questo linfa, che è stata fondamentale. Noi ancora oggi ci possiamo ricordare che il tratto Roma-Napoli, della ferrovia Roma-Napoli, chiamata direttissima, è stata finanziata con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti. Oggi è uno dei tratti chiaramente nodali, fondamentali nel sistema viario e infrastrutturale del nostro paese, ma ne potrei citare tantissimi. Faccio questo riferimento perché bisogna capire qual è stato lo sconvolgimento che ha travolto la Cassa Depositi e Prestiti, che ha, secondo me, dell'incredibile. Nel 2003, col governo Berlusconi e il ministro del Tesoro Giulio Tremonti, c'è stata la svolta in negativo epocale. Lascia la Cassa Depositi e Prestiti, dopo più di 100 anni, lascia la sua funzione sostanzialmente pubblica per diventare uno strumento sostanzialmente privato in mano al pubblico. E mi spiego meglio. La Cassa Depositi e Prestiti oggi che cosa rappresenta? Rappresenta, raccoglie innanzitutto il risparmio di circa 26 milioni di italiani. Ne siamo 60, quindi quasi la metà ha depositi presso le poste e in particolare libretti postali e buoni fruttifici. Attualmente la giacenza dei risparmi degli italiani ammonta a 260 miliardi, cioè permettetemi il paragone, per essere più precisa, 10 legge di stabilità, per intenderci, perché una legge di stabilità vale 30 miliardi. Noi teniamo, il popolo italiano è un popolo notoriamente di risparmiatori, e storicamente risparmia molto, e infatti si evince che 260 miliardi giacciono nelle casse della Posta e quindi di Cassa Depositi e Prestiti. È una banca di Stato, ha un patrimonio attivo di 420 miliardi, è terza nel panorama delle altre banche, la prima è l'Unicredit, la seconda è Intesa San Paolo, poi viene Cassa Depositi e Prestiti. Ha circa 33 miliardi di partecipazione in imprese medio-grandi. Vi vado a citare, per essere precisi, 35% di Poste Italiane, ovviamente, perché c'è un collegamento diretto, 26% di Eni, 30% di Terna, che per chi non lo sapesse ha la rete infrastrutturale della distribuzione dell'energia elettrica, Italgas, 26%, 31% Snam, 100% Fintecna, che è la più grande azienda ingegneristica in Italia e forse d'Europa, 100% di Sace, oggi molto citata nei telegiornali perché è l'azienda che dà la garanzia per i prestiti per le aziende col decreto del 10 aprile, 9% di Telecom, per intenderci, per andare, quindi è nel settore delle telecomunicazioni, settore ingegneristico, settore del turismo, settore dell'agroalimentare, settore anche farmaceutico, perché esiste una partecipazione in un'azienda che si chiama Kedrion Biopharma, e forse Vincenzo ci può dare qualche supporto in questo, che addirittura fa è un centro di ricerca sul plasma, e serve in questo periodo come il pane, no? Su tutta la possibilità di combattere il Covid. Vi dico questo, che è un mondo variegato, molto molto variegato. Però dal 2003 tutto questo, che cosa è successo? Sono entrati i privati sono rappresentati, ahimè, dalle banche, cioè la Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni, 84% è Ministero dell'Economia e Finanze, quindi sempre noi, perché fino a prova contraria siamo cittadini di questo paese, quindi Ministero dell'Economia, 16% fondazione bancaria. Questa è la struttura societaria. Dal 2003 c'è stata questa massiccia investimento nelle varie società. Ahimè, bisogna anche riconoscere che io ho definito la Cassa Depositi e Prestiti come l'ambulanza di questo paese. C'è il problema nella X, vabbè, utilizziamo la Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, ha fatto anche da soccorso per situazioni, per mantenere un livello occupazionale, tutto a posto, va bene, si può anche discutere su questo. Però quello che è stato snaturato è il concetto originario della nascita della Cassa Depositi e Prestiti, poiché, come vi dicevo prima e vi ricordavo, si era creato un meccanismo virtuoso. I cittadini versano i risparmi vengono utilizzati per fare opere a servizio di tutti. Questo meccanismo non c'è più, e vi dico anche perché. Dicembre 2018, quindi ieri sostanzialmente, il nuovo consiglio di amministrazione elabora il nuovo piano industriale. Ebbene, dalla lettura, dallo studio fatto dalla commissione per quanto riguarda il nuovo piano industriale, sono previsti 110 miliardi di euro di investimento dal 2019 al 2021, quindi noi siamo nel pieno di sviluppo di questo piano industriale. Ebbene, di questi 110 miliardi, ascoltate bene, 83 miliardi sono dedicate per le aziende, quindi finanzieranno aziende, e solo 25 miliardi finanzieranno gli enti locali. Ma forse niente, ma di questi 25 miliardi, poi siamo andati a verificare, nel caso del comune di Napoli, l'elenco di tutti i mutui in essere. Vi dico un dato: il comune di Napoli ha circa 700 mutui accesi, gran parte con la Cassa Depositi e Prestiti, altre una parte residua con sistema bancario classico. Su questi abbiamo valutato che la percentuale media applicata per i mutui è del 4,1-4,2%, roba da usurai, perché se oggi qualcuno di voi va in banca per chiedere un mutuo per l'acquisto di una prima casa, arriverà massimo all'1%. Allora il paradosso dove sta? Che mi fa saltare dalla sedia, sinceramente, e con molta passione lo dico, Voi signori Cassa Depositi e Prestiti, utilizzate i nostri risparmi, cioè voi non acquistate denaro dagli altri, voi utilizzate i risparmi degli italiani, ne fate una distribuzione distorta secondo il nuovo piano industriale, e quindi snaturando la funzione della Cassa Depositi e Prestiti, perché 83 su 100 miliardi su 110 li dedicate alle imprese, e già questo sarebbe discutibile. Poi una minimissima parte la dedicata agli enti locali, e ci applicate il massimo dei tassi possibili. Questa è roba da criminali, la posso utilizzare questa parola, perché io su questa questione, credetemi, io poi siamo andati nel dettaglio, perché poi abbiamo fatto un'analisi su dettagliata, prendendo a campione tra i 700 mutui del comune di Napoli. Ebbene, ok, abbiamo preso a campione 300 milioni di euro di mutui, abbiamo valutato quanto ci costano oggi, nei prossimi 25 anni, questi mutui, e quanti ci costerebbero se ci fosse un abbassamento del 0,5%, dell'1%, del 2%. E quindi significa scendere i tassi dal 4,2% al 2,2%, e già siamo sopra alla media del costo del denaro di oggi. E allora io mi voglio mettere nella condizione cara cassa, ti voglio regalare il 2,2%. Sapete che effetto ha sui bilanci, sul bilancio del Comune di Napoli? Nel giro da qui al 2043 ci sta un impatto positivo, quindi riducendo del 2% dei tassi di interesse, di circa 750 milioni di euro, che tradotto in 25 anni significa circa 27-28 milioni di euro che sarebbero utili per la spesa corrente, e mi riferisco al pane, alla pasta e alle cose correnti che il comune deve comunque, voglio dire, il paragone regge, ma per dare il significato alla parola spesa corrente, ma significa manutenzione strada, manutenzione del verde, interventi nel sociale, intervenire nel caso delle nuove povertà che nascono dopo il Covid, perché anche questo dobbiamo affrontare. Quindi il paradosso di questa questione è evidentissimo. Sinceramente sono 6 mesi che non riesco a capire per quale motivo non si prende questo toro per le corna. Perché non, per me, da cittadino, perché io parlo da cittadino, non è più possibile affrontare una cosa del genere. Allora, poi vai avanti, studi, approfondisci, e oggi tengo sotto controllo quasi quotidianamente ogni cosa che fa la Cassa Depositi e Prestiti. Perché poi è diventata una sfida, scusatemi, perché veramente ne faccio una questione anche, diciamo, nell'interesse della città, ma pure per un fatto personale, ma scusatemi. E vedo che il 27 aprile, quindi 15 giorni fa, è stato emesso un provvedimento di rinegoziazione dei mutui. E dico, vabbè, i giornali titolano 1,4 miliardi di beneficio per i comuni, chiaramente mi metto e studio e guardo. Dopo 10 minuti mi alzo dalla sedia e dico cose che non dovrei ripetere, perché ci vendono un qualcosa che è paragonabile a un bluff. Stanno barando, ci stanno prendendo per i fondelli. Volete sapere che succede? Vi danno la possibilità di accedere a una rinegoziazione che non va sui tassi di interesse, perché la percentuale che si abbassa è dello 0,01%, ma vi allungano laddove è possibile e vi spalmano il debito fino al 31/12/2043. E vi danno un contentino, e tutti i comuni accetteranno, perché stanno con il cappio alla gola, di non pagare interessi per il 2020. E siccome tutti i comuni stanno chiudendo i bilanci di previsione del 2020, che sono state stravolte dalla pandemia, saranno costretti, come fanno i poveretti che non tengono soldi nei confronti degli usurai, a prendersi questa manna, così chiamata dal cielo, che è una vera e propria truffa di Stato. Allora, o ci mettiamo d'accordo su cosa, dove vogliamo andare in questo paese, e non parlo solo di Napoli, oppure veramente poi diventa difficile spiegare ai cittadini per quale motivo sono state fatte scelte così scellerate. Io, come cittadino napoletano, dico che una rimodulazione del tasso di interesse si può, ma si deve fare, non si può, si deve fare, perché risparmieremmo circa 30 milioni di euro per ogni anno, e significa risparmiare un terzo degli interessi che attualmente il Comune di Napoli paga e inserisce a bilancio di previsione. Cioè, queste malefatte, io non so che cosa c'è che impedisce di farlo uscire e di farla diventare una battaglia di civiltà. Sinceramente non mi è ancora chiaro questo motivo. Io utilizzo, e vi ringrazio molto la Consulta, che mi ha dato l'opportunità di approfondire un aspetto del variegato mondo della pubblica amministrazione, e quindi di questo aspetto della Cassa dei Depositi, per addentrarmi un qualcosa che probabilmente non è chiaro nemmeno a tanti che giocano un ruolo politico e amministrativo in molte città, perché non si può spiegare per quale motivo non hanno una reazione di veemente contro una cosa del genere. E mi taccio, chiudo, mi avvio alla conclusione. Scusate la passione con la quale io, diciamo, tratto l'argomento, ma sono particolarmente coinvolto in questa cosa. E dico, noi come Consulta 2 giorni fa abbiamo fatto una riunione proprio sull'argomento in videoconferenza e sono state fatte delle scelte. Le dobbiamo perseguire, le dobbiamo affinare, le dobbiamo rendere praticabili. Si può dire, insomma, ci sarà un coinvolgimento dei lanci, perché noi come Comune di Napoli siamo sebbene la terza città d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti non può rinegoziare con i singoli comuni, chiaramente, ma da Napoli, attraverso la Consulta, ma soprattutto attraverso il sindaco di Napoli, che si faccia carico di parlare e di mettere la questione al presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, perché la questione che si sta discutendo non riguarda solo il Comune di Napoli, riguarda tutti gli enti locali. Quindi noi abbiamo, tra virgolette, potremmo avere semplicemente il merito di aver innescato la miccia, ma il resto lo devono fare le istituzioni. Fatta questa considerazione, secondo me De Caro non è l'unico interlocutore in questa faccenda, come è emerso dalla riunione, siccome il Ministro dell'Economia e Finanza ha potere di direzione e coordinamento su questa faccenda, deve essere non a breve, a brevissimo coinvolto su questa faccenda, perché i comuni tra 6 mesi moriranno, noi comuni di Napoli, tutti i comuni, minore risorse disponibili. Non ci sono chiaramente più entrate, maggiori costi da sostenere. Allora, o non mettiamo la benzina nella macchina della Polizia Municipale, o chiudiamo le linee della metropolitana, per fare un esempio, o la funicolare che dovrà funzionare fino alle 7 probabilmente. Voglio dire, queste sono le cose che poi il cittadino, ma il cittadino ignaro, darà la colpa al sindaco di turno, ma quello di Milano, quello di Ferrara, quello di Udine, quello di Caltanissetta, perché i sindaci sono, secondo l'immaginario collettivo, i responsabili di tutto questo. La Consulta serve a questo, a far rendere coscienti i cittadini che è vero, la politica ha le sue responsabilità, ma come si dice a Napoli, senza soldi non si cantano messe. Allora, o si pone un rimedio, o veramente da qui a poco tempo rischieremo sicuramente il default, ma come paese, non come solo come cittadina. Chiedo scusa della lungaggine del mio intervento, ma ritenevo opportuno darvi un quadro abbastanza completo del vasto e panorama della Cassa Depositi e Prestiti. Vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Sì, grazie mille a te, sei stato chiarissimo, quindi diciamo che basterebbe un minimo di abbassamento di questo tasso di interesse, non dico agevolato, ma almeno a un canone di mercato, per poter sbloccare, diciamo, risorse per diversi servizi pubblici. Questa mi sembra una cosa importante da dire, perché appunto sappiamo che ha precisi responsabili politici, tra cui il Ministero del Tesoro, che menzionavi prima tu, Ferdinando. Allora, procedendo su questo, Vincenzo, tu hai studiato invece molto più anche il tema del debito relativo ai commissariamenti, che noi abbiamo pagato, diciamo, quasi 3 volte, nel senso che abbiamo avuto i disastri, abbiamo avuto il commissariamento, che insomma, e poi abbiamo avuto il debito dei commissariamenti. Quindi, se ci vuoi raccontare un po' come lo studio che avete condotto e poi cosa si è detto nella delibera. Sì. Grazie. Sì, allora grazie a te Maria Francesca e grazie a Ferdinando per questo suo accorato appello e per questa splendida spiegazione nei dettagli del meccanismo. E l'obiettivo della Consulta è questo, l'obiettivo della Consulta è assolutamente questo, non favorire un sindaco o un altro, ma parlare alla città anche di quello che le amministrazioni hanno potuto sbagliare volontariamente o involontariamente. Sul debito, diciamo, dei commissariamenti. Sul debito dei commissariamenti voglio essere chiaro fin dall'inizio: siamo in credito e non siamo in debito. Inutile approcciarla in maniera diversa, perché se dopo 5 stagioni commissariali, dove si sono avute ruberie, sospensione della democrazia, una serie di illeciti amministrativi, una serie di allargamenti del proprio mandato iniziale dal punto di vista dell'attività dei commissari e via dicendo, se dopo tutto questo aggiungiamo quello che abbiamo dovuto soffrire in termini di costo sociale, ambientale e di vite umane, io penso che facendo i conti, ripeto, siamo in credito e non siamo in debito per queste stagioni, ma andiamo nello specifico. Voler ricostruire la storia di queste questioni relative ai commissariamenti che nascono nel 1980 col terremoto è complicato e veramente districarsi è stato difficile e non ci siamo ancora riusciti del tutto, ma una prima traccia importante l'abbiamo segnata con la commissione appunto della consulta sui commissariamenti e il debito degli enti locali, nella quale consulta ci sono avvocati e cittadini di grande esperienza su tutto questo. Che cosa abbiamo capito? 5 stagioni commissariali, quella lì del terremoto, quella per i rifiuti, quella del terremoto iniziata nell'80 e finita praticamente non ancora finita, probabilmente finita nel 2018, come dire, dal punto di vista formale, ma possiamo dire finita ieri, l'altro ieri, stamattina, veramente una cosa incredibile. La gestione, l'era, possiamo dire, del commissariamento dei rifiuti degli anni 90 sostanzialmente, e poi altri 3 bellissimi commissariamenti, uno è quello là di Bagnoli, davvero scandaloso in termini di forma e in termini di sostanza, e poi ci sono 2 commissariamenti veramente sui generis, uno per il dissesto idrogeologico sostanzialmente dovuto alle questioni relative al dissesto idrogeologico dell'area ovest, nord-ovest della città, pianura e zone limitrofe, e il commissariamento per il traffico che ha riguardato tutti i lavori concernenti la realizzazione dei parcheggi interrati a Napoli. Ebbene, per queste stagioni dove i commissari hanno agito di fatto e de jure per conto dello Stato, sono stati lasciati invece al Comune di Napoli, quindi nelle casse del Comune di Napoli, mal contati, sebbene abbiamo fatto i conti nello specifico, mal contati più di 300 milioni di euro. Ora, 200 milioni e passa per la stagione dei commissari sul terremoto, per quanto riguarda il terremoto dell'Irpinia. 66 milioni, quindi quasi 70 milioni per la gestione commissariale dei rifiuti, e poi tutto il resto, che è tutto un meandro e un impelagarsi continuo sulle questioni relative che stiamo ancora calcolando, sulle questioni relative agli altri commissariamenti. Quindi stiamo parlando come cifra primaria presente all'interno del bilancio del Comune di Napoli ancora adesso di 300 milioni e passa. Ripeto, commissari che hanno agito per, come organo dello Stato, e che poi una legge finanziaria, come riportiamo all'interno della delibera 117 del 29 aprile che abbiamo proposto come consulta e che poi ha fatto la Giunta, come riportiamo lì, una legge finanziaria del 2013, 27 dicembre, comma N più 1, 400 e rotti, c'è scritto che tutte le decisioni dei commissari, di tutte le gestioni commissariali d'Italia, passano in carico ai comuni senza deroga. Ebbene, noi ci siamo opposti a questo, come c'è scritto nella delibera, ma sostanzialmente dobbiamo dire qualcosa in più per capire che cosa poi significano tutti questi debiti. Significa non solo che ci sta questa cifra all'interno del bilancio, ma che per pagare queste cifre negli anni abbiamo dovuto accendere dei mutui. Con chi? Con la Cassa Depositi e Prestiti. A che tassi? A tassi fuori mercato. Quindi, come vedete, come dicevo all'inizio, qui si tratta di un serpente che si morde la coda e di una involuzione del sistema che non può portare altro che ad un'erosione continua delle risorse della città. Con quale obiettivo e con quale fine, sebbene diciamo non completamente dichiarato ma ben chiaro alla cittadinanza, col fine delle privatizzazioni e della svendita del patrimonio. Quindi noi abbiamo pagato, stiamo pagando 300 e teniamo nel bilancio 300 milioni per queste stagioni commissariali di sospensione della democrazia, e abbiamo all'interno del bilancio anche dei mutui relativi a tutti questi soldi che dobbiamo spendere a tassi fuori mercato con la Cassa Depositi e Prestiti, sui quali noi maturiamo interessi passivi. Quindi veramente il mostro, perciò dicevo all'inizio il debito fuori dal comune, è il mostro, è veramente senza precedenti, cioè un mostro che non ha né capo né coda, un mostro che sfugge, ma dalla forza terribile, dalla forza veramente implacabile, perché non c'è solo il danno, c'è anche la beffa, la controbeffa, quindi è di questo che stiamo parlando, ok? E che cosa abbiamo fatto nella delibera? Bene, nella delibera abbiamo identificato, attraverso un discorso di come dire, lettura costituzionalmente orientata della delibera, abbiamo identificato tutta una serie di articoli della Costituzione, il 3, il 5, il 114, il 118, il 119, il 42, il 43, ve li elenco così come diciamo gli avvocati e i tecnici della Commissione me li hanno e il professor Maddalena me li hanno insegnati, che vengono violati platealmente, come diciamo all'interno della delibera, perché sostanzialmente di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che un'attività scellerata e spesso anche, ripeto, fuori dalle competenze dei commissari è stata riversata sul Comune di Napoli. Quindi noi che cosa abbiamo detto? Che noi ripudiamo e cancelliamo sistematicamente dal bilancio del Comune di Napoli questi debiti, perché noi non possiamo continuare a pagare cifre per le quali noi crediamo essere in credito e non in debito. Quindi adesso che cosa faremo come Consulta? Faremo di tutto per fare in modo che il Comune si attenga a questa, che la Giunta e l'amministrazione si attenga a questa delibera, che la porti avanti, la porti al Consiglio Comunale, la porti nelle sedi adatte per fare in modo che tutto questo debito venga dato in capo allo Stato e che la città venga liberata da 40 anni di gestione commissariale, perché non possiamo portare sulle nostre spalle e sulle spalle delle generazioni future cose che ci hanno già fatto soffrire come città, come persone e come individui. Grazie Vincenzo, anche tu chiarissimo, insomma mi sembra molto evidente come sono adesso i termini della situazione. Allora, prima di lasciarvi, di lasciarci alle Brigate Volontarie dell'Emergenza di Milano, che sarà alle 17, vi chiederei giusto una chiusura lampo su quali sono i prossimi passi e qual è stato il peso di questa delibera, perché molti dicono che è stata una delibera solo di indirizzo. Quindi ci salutiamo e ci spieghiamo un attimo queste ultime cose. Posso? Non so, vogliamo far parlare come ci muoviamo? No, no, vai, prego, vai. Prego Vincenzo, vai. No, come ciò, so dire, perché già ho parlato tantissimo nell'ultimo intervento, i prossimi passi, e se questa è una delibera di indirizzo? Certo è una delibera di indirizzo politico, ma è una delibera che ha una sostanza giuridica molto forte. Si rifà ad un orientamento costituzionale e si rifà ad una sostanza giuridica che chiaramente necessita di un'azione ulteriore, perché è evidente che nella dottrina del ripudio del debito non ci può essere una compartecipazione nella cancellazione di un debito. Su questo Toussaint è stato molto chiaro nel suo ultimo libro Il sistema debito. Non esiste uno Stato e tantomeno gli enti locali che in un, come dire, in contesto arbitrale vadano a concordare con le banche in amicizia e senza conflitto l'abbassamento o la cancellazione del debito. La cancellazione del debito è atto unilaterale e deve essere tale, perché questo deve e può aprire uno spiraglio conflittuale che metta sul tavolo le carte giuste per capire cosa e come farlo. E noi questo cosa e come farlo lo abbiamo scritto all'interno della delibera. Ripeto che è stata voluta, costruita fortemente dalla Consulta e poi, grazie alla permeabilità dell'amministrazione, è stata portata in Giunta. Questo è il punto. Cosa si fa adesso? Si va a parlare con l'ANCI, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le commissioni parlamentari, perché tutto quello che c'è scritto vada ad avere un compimento e soprattutto si andrà dal giudice ordinario per sollevare nell'ambito della questione dei commissariamenti la legittimità costituzionale. Questi sono i passi giuridici, ma poi esistono dei passi politici. Questi passi politici verranno fatti con la città, con una grandissima opera di informazione, con una grandissima opera di sensibilizzazione su questi temi, e soprattutto andrà fatto con il sindaco, perché bisognerà capire se il sindaco questa sfida la vuole portare avanti fino in fondo, oppure si vuole fermare ai proclami, alle questioni locali. Noi abbiamo bisogno di portare avanti questa battaglia, perché dobbiamo liberarci dalle catene del debito, e andremo avanti con tutta la filiera, come l'abbiamo definita 2 giorni fa, Ministero Economia e Finanze, Commissioni Parlamentari su Bilancio e sull'Economia, Cassa Depositi e Prestiti, ANCI, ma ripeto, anche giudice ordinario, per sollevare la legittimità costituzionale di quello che abbiamo detto all'interno della delibera, ovvero che questo debito è ingiusto e illegittimo e va cancellato e ripudiato dal bilancio del Comune di Napoli. Quindi questo è quello che noi faremo successivamente. Grazie. Ferdinando, tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo giusto un minuto, perché penso che Vincenza abbia fatto una sintesi di quello che ci aspetta da qui a domani. Domani mattina già dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginabili. Però io volevo guardare anche un po' oltre, perché più volte mi è stato giustamente messo in evidenza la questione della Cassa Depositi e Prestiti, che a me, ne faccio ammenda, per me era una sconosciuta, e che oggi grazie alla consulta ho potuto approfondire, studiare e guardarla da un'angolatura professionale, però anche da cittadino, insomma, no? Però mi è stata sollevata più volte da Corrado Conti, ma anche da Lovera nelle commissioni, io lo voglio ribadire, che l'altra battaglia da fare sarebbe quella della ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti. Non è una battaglia che si può fare in pochi mesi, ma noi dobbiamo portare la Cassa Depositi e Prestiti a guardare avanti fondandolo nelle radici per cui è nata la Cassa Depositi e Prestiti. Raccoglie i risparmi degli italiani e li devi mettere a disposizione degli italiani stessi attraverso tassi agevolatissimi. Deve essere soltanto un collettore di risparmi, perché le opere pubbliche devono andare avanti. Questo paese manca di infrastrutture, il gap che abbiamo rispetto agli altri paesi europei è molto legato alla questione di mancanza di investimenti nelle infrastrutture, e la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti è uno strumento per riattivare lavori, per riattivare l'economia di questo paese, ma soprattutto per dare un futuro alle generazioni future, per dare infrastrutture, cioè come sono stati lungimiranti agli inizi del Novecento. Noi dobbiamo riproporre questa cultura, utilizzare questa grande forza, il risparmio degli italiani, che è insito nel modo di vivere degli italiani, per investirlo per il bene di tutti e non per il bene di pochi. Grazie. Grazie mille. Poi ci diceva Marco Bersani nella scorsa puntata che su questo c'è una campagna nazionale che si chiama Riprendiamoci il Comune, per la risocializzazione di Cassa Depositi e Prestiti. A questo punto io ringrazio gli ospiti, naturalmente ringrazio molto sia la redazione di Radio Virus che di Radio Quarantella. Ricordo che ovviamente, come avrete visto e immaginato, c'è bisogno del contributo di tutti e di tutte, e i lavori della consulta saranno presto pubblicati sul sito, che ha una pagina sul sito del Comune di Napoli e anche su Facebook, quindi della consulta di audit sul debito pubblico della città di Napoli. Detto questo, vi ringrazio tutte e tutti per l'ascolto e vi lascio appunto alle Brigate di Milano. Grazie a tutti, a tutti. Grazie, grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie Francesca, grazie a tutti. Grazie. Grazie.